9 luglio Amnesty International partecipa alla giornata internazionale della distruzione delle armi nell'ambito della settimana internazionale di azione contro le armi leggere. La denuncia di Amnesty e delle altre organizzazioni internazionali e italiane che partecipano a questa campagna è quella di denunciare che sono le armi leggere le vere armi di distruzione di massa. Diamo qualche dato: nel mondo circolano oltre 639 milioni di armi leggere, uno ogni 10 persone. Inoltre vengono prodotte ogni anno 8-9 milioni di armi leggere, vengono prodotti oltre 14 miliardi di munizioni ogni anno, quasi due per ogni abitante del pianeta. Noi diciamo che alimentare questo commercio, soprattutto da parte dei governi occidentali e dei membri del Consiglio di sicurezza, è responsabile per quanto è successo negli ultimi anni. In particolare la nostra denuncia è che dall'11 settembre in avanti, dalla guerra in Iraq in avanti, non si è fermato il commercio internazionale di armi, che anzi è molto aumentato. Si pensi solo al dato italiano: tra il 2002 e il 2003 le esportazioni internazionali di armi sono cresciute addirittura del 40%. E quello che c'è da dire a livello internazionale, che ci preoccupa ancora di più, è che nell'ambito della guerra al terrorismo si sono verificate tante esportazioni di armi da parte di tutti i paesi verso destinazioni dove potrebbero essere utilizzate per compiere gravi violazioni dei diritti umani, grave violazioni del diritto umanitario internazionale, quello che tutela proprio i civili, che sono le maggiori vittime dell'abuso di armi da fuoco in tutto il mondo. Oggi si svolgeranno tante iniziative, se ne sono svolte tante nell'arco di questa settimana, soprattutto è importante sottolinearlo, in tanti paesi del sud del mondo, dal Burundi a tanti altri paesi dell'Africa subsahariana o dell'Africa occidentale, in tanti paesi del sud-est asiatico, in tanti paesi dell'America meridionale. Ad esempio oggi in Brasile verranno distrutte oltre 4.500 armi da fuoco, e altre iniziative si stanno svolgendo proprio in questo momento in Cambogia, in Macedonia, in Spagna, in Sudafrica e anche nella vicina Londra, in Spagna. Insomma, tante iniziative di distruzione sulle armi leggere. Questa giornata internazionale è nell'ambito di una campagna mondiale sul commercio degli armamenti. In particolare, con la campagna Control Arms, Amnesty International vuole chiedere con forza l'istituzione di un trattato internazionale che controlli il commercio di armi. Denunciamo che oggi è drammaticamente fuori controllo il commercio di armi, in particolare assolutamente fuori controllo il commercio di armi leggere. È una campagna che si pone un obiettivo importante e raggiungibile. Vogliamo che nel 2006 questo trattato venga firmato dai governi, ed è per questo che iniziamo a lavorare in questi due anni, chiedendo l'aiuto a tutti i cittadini, a tutti coloro che nel nord e nel sud del mondo stanno soffrendo in modo drammatico il problema della proliferazione di armi, e di armi piccole e leggere in particolare. Vogliamo dire che in Italia la campagna è portata avanti dalla rete italiana contro l'armi, quella che si è costituita per difendere la legge sul commercio di armi. Infatti ricordo che proprio 14 anni fa, il 9 luglio del 1990, l'Italia si è dotata di una delle migliori discipline a livello internazionale sul controllo del commercio degli armamenti, che tuttavia è tuttora per molti versi disapplicata, e soprattutto sono escluse dalla sua applicazione proprio le armi da fuoco, le principali responsabili di tanti conflitti nel sud del mondo, dei cosiddetti conflitti dimenticati, quelli che si svolgono ad esempio nell'Africa subsahariana come oggi, o come oggi in Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda. In fondo ricordiamo che chi ha armato Saddam Hussein, pensiamo ai milioni di mine italiane che sono finite durante gli anni 80 in Iraq, sono stati proprio i governi occidentali.